Buonasera a tutti, siamo qui puntuali come sempre alle ore 20 in diretta radiofonica qui dagli studi di Radio Onde Furlane e andremo avanti con questo programma che è Zardins Magnetics fino alle ore 21:30, ma andiamo con quella che è la sigla di questa trasmissione. Bene, questo brano era la sigla iniziale di questa trasmissione che è Zardins Magnetics e siamo in diretta radiofonica dagli studi di Radio Onde Furlane da Udine e appunto come ogni giovedì. Comunque il brano era Retribution dei Behind Enemy Lines e volevo ricordare anche che questa trasmissione viene condotta da l'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione di Udine, Friuli e Trieste, e ora andiamo all'ascolto di un brano, anche due, da questa band di Gorizia. Loro sono i Warfare e i brani che ascoltiamo sono estrapolati da un loro album, uscito nel 1994, che si chiama Ai confini della realtà, e comunque era uno split, per l'esattezza un 12 pollici split, che era condiviso assieme alla band di Monfalcone, che erano i Rasta e Peace Corporation. Ma noi ci ascoltiamo i Warfare. tutta colpa di Alfredo. Dicono che è colpa nostra se ancora una volta sono morti i nostri figli in mare. Non dovevamo farli salire sulla barca e rischiare un lungo viaggio in condizioni precarie. Che importa se sarebbero morti di miseria, malattia o di guerra lì dove erano, in Mali, Guinea, Palestina, Afghanistan, Iraq, Pakistan, Sri Lanka. È colpa nostra se in 13 siamo morti in carcere perché ci siamo imbottiti di metadone durante una rivolta causata dal terrore del contagio da Covid nel marzo 2020. Che importa se i cadaveri avevano i denti spezzati e le ossa rotte, cremati in tutta fretta perché potenzialmente contagiosi, e le indagini sono state subito archiviate. È colpa nostra se abbiamo usato il nostro corpo come un'arma e dopo 4 mesi di digiuno ora possiamo solo morire. Ma non è anch'essa una lenta morte quella vissuta nei loculi del 41 bis, totalmente isolati dal mondo esterno? Dobbiamo viverla ad ogni costo, magari curati e alimentati a forza, sedati e legati al letto, mentre nelle carceri gli altri muoiono proprio per mancanza di igiene, cure mediche, uccisi dalle botte e dall'indifferenza? È colpa nostra se non abbiamo creduto che sarebbe andato tutto bene se ci iniettavamo 3 o 4 dosi di vaccino solo per poter andare a lavorare muniti di lasciapassare sanitario. Intanto siamo morti nelle residenze per anziani e negli ospedali, pubblici e non quelli privati, finanziati con i soldi pubblici, isolati dai nostri affetti più cari. No, non è andato tutto bene e non è di certo finita, visto che la produzione di sieri geneticamente modificati procede a ritmi serrati. Ancora nostra è la colpa se da 5 mesi non abbiamo più uno stipendio perché abbiamo rifiutato la cassa integrazione e continuato ad occupare la fabbrica pretendendo il rilancio dell'attività produttiva per noi e per il territorio in cui viviamo. Dovevamo invece credere alle bugie che ci raccontavano e fare un passo indietro? Colpa nostra se siamo morti schiacciati da un camion. Non avremmo dovuto tentare di bloccarlo ai cancelli del magazzino. Ma potevamo continuare ad accettare turni di lavoro massacranti, infortuni, contratti di lavoro a 1 mese, continue rapine sulle buste paga già da fame? Pure colpa nostra le botte, le multe, le denunce, i processi, la galera, perché non capiamo l'utilità delle grandi opere come il TAV, che fa arrivare un'arancia sulla nostra tavola in tempo zero, dopo aver girato per 3 continenti e distrutto e avvelenato irrimediabilmente territori ed economie di prossimità. Anche colpa nostra se con tutta la propaganda che c'è proprio non riusciamo a convincerci che le ragioni della guerra si possano spiegare con la minaccia del cattivo di turno Saddam, Bin Laden, Milosevic, Gheddafi, Assad e ora Putin, e che stare con la NATO, ovvero con gli USA, rappresenti indiscutibilmente lo stare dalla parte dei buoni. Così come non possiamo credere che le decennali politiche di sicurezza che hanno edificato una società sempre più militarizzata e privatizzata sull'emergenza di turno, mafia, terrorismo islamico, black bloc, ultras, immigrazione, negazionisti e ravers, ci abbiano reso la vita migliore e più sicura. Queste colpe non ce le sentiamo, ma è nostra di certo la responsabilità di riuscire a costruire le forze per affrontare la guerra che questo Stato corrotto e assassino ci sta muovendo contro, per difendere un sistema di privilegi e di miseria che sta portando velocemente tutti alla catastrofe. Tanto abbiamo fatto in questi anni per resistere, mantenendo viva la lotta e la solidarietà di classe, ma occorre uno sforzo ben maggiore per ricomporre in una prospettiva potenzialmente rivoluzionaria un panorama di lotte così frammentato. Questa unità delle lotte va cercata, costruita e difesa giorno per giorno. Non sarà oggi e forse nemmeno domani, ma con questo spirito parteciperemo alle prossime scadenze di lotta che necessitano, per la rilevanza acquisita, della presenza, dell'impegno, dell'intelligenza e del coraggio di tutti e di ciascuno. Un saluto anche da parte mia in questo giovedì 2 marzo su Zarris Magnetics. Questa che vi ho appena letto era un documento steso dall'Assemblea Cittadina Milanese contro carcere 41 bis ergastolo, e tra l'altro appunto questa assemblea ha organizzato proprio oggi un presidio davanti alla sede milanese di Fratelli d'Italia che è il primo responsabile in questo momento della condanna a morte di Alfredo. E appunto questa settimana così si è aperta con questa angoscia, diciamo, dopo l'infame sentenza della Corte di Cassazione dello scorso venerdì, che ha rigettato il ricorso presentato dall'avvocato di Alfredo contro la sua detenzione in regime di 41 bis. C'è questa così pesantezza che, insomma, io la sento personalmente, individualmente, ma è una pesantezza che è condivisa anche politicamente, insomma, dalle compagne e dai compagni. E però, come ci ha fatto sapere, insomma, l'avvocato, Alfredo non è scoraggiato, diciamo, non si è depresso, è determinato, mantiene la sua determinazione, il suo coraggio, così, e la sua integrità. Quindi questo ci deve, sì, deve dare forza, insomma, anche a noi. E nonostante, quindi, così, questa situazione anche di dolore, è bene mantenere la lucidità e continuare, come dicevano i compagni nel volantino che ho appena letto, le lotte con ancora maggiore determinazione. E come dicevano altri compagni in un altro documento, niente sarà più come prima. E però dicevano, appunto, per dare questa apertura, diciamo, le molecole di questo corpo anarchico eterogeneo non si sono mai fermate, nonostante il peso che su molte di esse già gravava. E adesso, direttamente da Napoli, ci stiamo ascoltando i Contropotere dal loro album datato 1988, Nessuna Speranza, Nessuna Paura. Scoppio. Una regione, un'ombra contemplante si è spessa e da assoluta. Un scudo, un fuso di profondo spirito caos. I sette peccati mortali parvero in creazioni viventi nelle fiamme degli eterni. Tra cataratte di fuoco, sangue. Come un nero globo in piedi sulla sponda dell'oceano infinito. Thank you. E continuiamo con le letture che incitano alla lotta e anche all'intelligenza della lotta, proponendovi questo testo che si intitola I mezzi e i fini, un testo che potete poi trovare sul blog Il Rovescio, in una rubrica che si chiama Il fanale oscuro. I mezzi e i fini. Se per vincere dovessimo erigere le forche, preferirei perdere. In questa lapidaria frase di Malatesta era chiuso l'ideale anarchico. A differenziare l'anarchismo da tutte le altre correnti storiche del movimento di autoliberazione proletaria non è solo la sua posizione antiparlamentare, né più in generale il rifiuto dell'uso temporaneo dello Stato per raggiungere l'emancipazione sociale. Si tratta, in un caso come nell'altro, dell'applicazione pratica di uno stesso principio di fondo, la necessaria coerenza tra mezzi e fini. La razionalità della potenza, vero e proprio motore degli ultimi due secoli di sviluppo tecno-economico, ha confermato tale principio fino all'abisso atomico. Non esiste alcun fine che possa essere non solo giustificato, ma nemmeno perseguito attraverso mezzi capaci di disintegrare la vita terrestre, cioè quel mondo senza il quale non può darsi alcuna finalità umana. Coloro che pensavano che il potere coercitivo dello Stato fosse una misura necessaria e temporanea verso l'uguaglianza hanno dapprima sfigurato ignobilmente il socialismo e poi lo hanno dichiarato compatibile persino con gli arsenali di bombe nucleari. La questione del 41 bis, benché coinvolga direttamente la vita di poco più di 700 persone, è a suo modo un saggio sulla moralità. Chi pensa che sia legittimo l'impiego di mezzi di tortura istituzionale per raggiungere determinati fini, sconfiggere la mafia ad esempio, non solo conferma il proprio machiavellismo etico, ma rafforza in realtà quello stesso potere di cui la mafia è parte. Il punto non è quali persone vengono torturate, fossero pure le peggiori del mondo, ma cosa succede alle nostre vite quando ci facciamo complici silenti della tortura. A questa posizione di principio si affianca l'esperienza storico-sociale. Certe misure necessarie e temporanee non solo non vengono mai abrogate, ma allargano di continuo il confine dei nemici contro cui possono essere applicate. In tal senso, lo sciopero della fame di Alfredo Cospito ha un valore tanto partigiano, la sua determinazione si è infilata come un cuneo dentro l'azzardo statale di applicare il 41 bis a un anarchico in vista di allargarlo poi ad altri compagni accusati di associazione sovversiva con finalità di terrorismo, quanto universale. In quella tomba per vivi non deve essere più rinchiuso nessuno. Nella falsa parola di Stato, tutto questo diventa una saldatura tra anarchici e mafia, con Alfredo presentato come uno strumento nelle mani dei mafiosi. In realtà, sono lo Stato e la mafia ad avere in comune sia una scambievole e proficua collaborazione storica, sia un'identica concezione del rapporto mezzi-fini. Condividono la stessa visione neoliberale, per cui gli affari sono affari, e la stessa strategia politica. Per preservare il proprio potere si può ricorrere a ogni mezzo, massacro compreso. Non a caso, la stagione delle stragi antiproletarie viene inaugurata nell'Italia repubblicana a Portella della Ginestra, con l'eccidio mafioso dei contadini e dei braccianti per conto degli agrari e della CIA. Caso ha voluto che a gestire le contraddizioni esplose grazie allo sciopero di Alfredo non fosse il governo di unità nazionale, che quel 41 bis glielo ha imposto, bensì un esecutivo di post-fascisti, cioè degli eredi di un movimento utilizzato nella Repubblica nata dalla Resistenza quale truppa interna al soldo della CIA e della NATO e quale forza ferocemente anticomunista. E lo scoop sarebbe che Alfredo nel carcere di Bancali parlava con il tal 'ndranghetista. Con chi avrebbe dovuto parlare, dal momento che nell'ora d'aria può incontrare al massimo tre persone, decise peraltro dalla direzione? Con gli agenti del gruppo operativo mobile, magari gli stessi impiegati nelle torture di Bolzaneto? I giornalisti ci informano che questo 'ndranghetista è un ex militante di Ordine Nuovo, cioè un soldato politico di una organizzazione nata come costola della MSI. Possiamo quindi affermare con il massimo rigore che la sua storia e la sua ideologia figurano nello stesso album di famiglia di chi sta al governo, mentre i compagni degli anarchici sono gli assassinati dai birri sabaudi, monarchici e repubblicani, dalle lupare mafiose e dal piombo di Stato. Come al solito, invece di ricordare i legami storici tra mafia, CIA, apparati istituzionali e neofascismo, gli eredi dello stalinismo, che in Italia è stato il più insidioso nemico del movimento rivoluzionario, fanno a gara su chi protegge con più fermezza lo Stato. Gli anarchici, viceversa, sarebbero contro il 41 bis persino se vi finissero dei parlamentari e dei borghesi, invece dei loro tirapiedi, concorrenti sconfitti o dei poveri diavoli opportunamente mostrificati. Perché mai un uomo che ha sparato nelle gambe dell'amministratore delegato di Ansaldo Nucleare prova umana empatia per dei mafiosi vecchi e malati che da 30 anni sono privati di ogni abbraccio e della possibilità stessa di guardare un albero, un filo d'erba? Forse perché il primo era nel pieno esercizio della sua potenza tecnocratica, il cui dispiegamento lo abbiamo visto nel disastro di Fukushima o nell'impiego sul campo dei proiettili all'uranio impoverito, mentre i secondi sono capitalisti illegali sconfitti, nonché uomini sepolti vivi da uno stato stragista come e più di loro? Capita ad anarchiche e anarchici di trovare compagne e compagni di lotta contro determinati obiettivi: il TAV, le coltivazioni transgeniche, lo sfruttamento lavorativo, il Green Pass, la guerra, il carcere. Ma queste compagnie, più o meno durature, più o meno occasionali, quasi mai scalfiscono a fondo il loro sentimento di solitudine morale. Nel movimento contro il TAV non è mancato chi ha appoggiato elettoralmente i 5 Stelle, cioè uno dei partiti più manettari della storia di questo paese, come la questione del 41 bis illustra abbondantemente. Nella campagna internazionale contro gli OGM, se pochi puntavano sull'azione diretta e sul sabotaggio di campi sperimentali e di laboratori di ricerca, i più chiedevano l'etichettatura dei prodotti geneticamente modificati. Nella resistenza allo sfruttamento ci sono stati, oltre ai blocchi e ai picchetti, anche i sindacalisti che andavano in prefettura a chiedere l'intervento istituzionale contro gli eccessi padronali. Nelle piazze, contro il lasciapassare, non pochi reclamavano una nuova Norimberga o il 41 bis per Draghi. Per una parte non proprio minuscola di coloro che si schierano contro le bombe della NATO, il potere russo è, se non un'alternativa da appoggiare, il male minore da non criticare. E anche ora, tra chi si mobilita in solidarietà con Alfredo e contro il 41 bis, ci sono componenti politiche che hanno appoggiato ieri l'altro la discriminazione sociale dei renitenti alla vaccinazione genetica. L'auspicio più profondo è che la battaglia contro il 41 bis, in cui un compagno si sta giocando letteralmente la vita, sferri un poderoso attacco, sia al carcere, sia al calco che esso ha scavato negli spiriti. Il fine giustifica i mezzi. Perché la rivolta non ha mai affermato nel suo moto più puro, se non l'esistenza di un limite, di una dignità e di una bellezza comune agli uomini. Thank you. intanto scusate, ecco, intanto in sottofondo lascio ancora questi Contropotere, band come già detto, annunciata prima, dal loro album datato 1988, Nessuna Speranza, Nessuna Paura. Ma ora invece andiamo all'ascolto di una band, diciamo locale, bassa goriziana. Sempre fino adesso abbiamo ascoltato, insomma, ho presentato robe datate, invece andiamo all'ascolto di questa band che addirittura prima ancora che esca il loro disco, anzi uscirà tra due settimane, il CD di questa Minoranza di Uno, che si intitolerà Il peso della sconfitta, quindi diciamo un ascolto in anteprima. Minoranza di Uno. Fanculo la società. La società si merita solo odio per tutto quello che ha fatto e anche di più. Affanculo a tutti uno per uno per quanto ci hanno fatto soffrire. Riesci a sentirmi adesso? Riesci a sentirmi adesso? Riesci a sentirmi adesso? Ti chiedo scusa per avere le ginocchia a terra e la testa che sanguina. Nel resto non potevo prevedere questo crollo improvviso, questo abbraccio pesante alle spalle. Riesci a sentirmi adesso? È importante imparare che la fine non decende di un nuovo inizio, ma soltanto la fine. La fine sola e fredda di quello che eravamo. E ora resto, ora resto io, ora resto soltanto io. Sì, 20 e 49 circa, siamo sempre su Giardini Magnetics. Allora, continuiamo con le letture, questa volta la lettura di una lettera aperta ai disertori e alle disertrici dell'emergenza permanente, che è stata così volantinata durante la manifestazione nazionale contro la guerra che si è svolta sabato scorso, il 25 febbraio, a Genova. Mobilitiamoci contro la guerra. Cari disertori, care disertrici dell'emergenza permanente, quest'oggi siamo qui sperando di cominciare a sollevarci da uno stato di cose che ogni giorno si fa più oppressivo e insieme più pericoloso. Prima di tutto però cerchiamo di presentarci. Siamo anarchiche e anarchici, come tali storicamente ci troviamo ad essere parte di quel variegato mondo definibile come antagonista, cioè quanti dichiarano di voler superare il capitalismo in quanto tale. Già minoranza nella minoranza, poiché contrari a ogni forma di autorità costituita e di accomodamento con le istituzioni, poiché ostili ai giochetti della politica, intesa come arte di dirigere e manovrare gli altri attraverso la menzogna e la coercizione. Durante l'emergenza Covid-19 ci siamo trovati ancora più soli, stretti tra la difficoltà di analizzare adeguatamente quanto stava succedendo, il disorientamento e il conseguente mutismo di una parte dei nostri, e una deriva che ha travolto l'intera sinistra antagonista a livello mondiale, fino agli estremi di chi ha invocato la vaccinazione obbligatoria antifascista o lodato l'efficienza del socialismo di mercato cinese nel gestire l'epidemia. Siamo persi d'animo allora, ma abbiamo costruito e diffuso un nostro punto di vista critico sul pandelirio autoritario, così oggi non vogliamo chiuderci nella sfiducia e nel rancore verso chi non ha capito per tempo. La gravità dei tempi e degli eventi semplicemente non lo permette. Al contrario, vogliamo cogliere ogni occasione per rovesciare questa situazione e uscire dall'angolo in cui stati e padroni stanno costringendo gli oppressi, gli sfruttati, l'umanità intera. In questo senso la manifestazione di oggi, chiamata dai portuali del CALP, ci sembra davvero un'occasione, sia per la volontà dichiarata di fare male alla controparte guerrafondaia, invadendo il porto, sia soprattutto per la chiarezza della chiamata stessa, di cui riportiamo alcuni stralci. Oggi siamo a un anno dall'inizio della guerra tra Russia e NATO per procura in Ucraina, uno scontro iniziato nel 2014 dall'Ucraina verso le zone del Donbass, che ha provocato decine di migliaia di vittime di cui nessuno parla, sfociando in un conflitto allargato nel febbraio 2022 e che oggi rischia di arrivare a un'escalation nucleare, un conflitto in cui l'Italia è attivamente coinvolta con l'invio di armi e non solo, e che ha delle cause che vanno al di là delle cose che vengono propagandate. Il complesso militare industriale è tra i molti responsabili di questa escalation, quello almeno che ci guadagna di più. I lavoratori e gli sfruttati di ogni paese non hanno nulla da guadagnare. La guerra non è soltanto un enorme macello per i popoli, ma porta con sé anche devastazione sociale, tagli di risorse per il lavoro e per il welfare, per sostenere le spese militari. Parole chiare che volevamo sentire da tempo e che ci dicono finalmente che se Putin e lo Stato russo non sono nostri amici, il nostro primo nemico è quello che marcia alla nostra testa, ovvero chi ci governa, è quello che la guerra l'ha cominciata col golpe di Maidan e l'aggressione nazionalista e fascista ai russi d'Ucraina. Ma soprattutto è il complesso militare industriale che da una parte e dall'altra della trincea globale alimenta e si alimenta del massacro tra i popoli. Parole che ci dicono infine quanto opporci a questa guerra e al mondo che ne viene apparecchiato sia non solo un nostro dovere umano, ma anche un nostro evidente interesse come sfruttate e sfruttati, oppresse e oppressi. Certo, inutile nascondercelo, nella chiamata manca più che qualcosa. Non viene detto, ad esempio, che il complesso militare industriale è qualcosa di più della semplice rete di interessi tra eserciti, dipartimenti universitari e industrie belliche per la produzione di armi, ma al contrario riguarda, e non da ieri, tutto l'ambito delle tecnoscienze, che in questo complesso non c'è una sola ricerca, dalla biologia di sintesi fino all'informatica, passando per la robotica e i nanomateriali, che non abbia carattere duale, cioè insieme civile e militare, e che al suo interno tutto ciò che non è strettamente finalizzato alla guerra è comunque volto allo spionaggio e al controllo delle popolazioni e alla robotizzazione dell'essere umano. Una mancanza, questa della chiamata del CALP, non certo casuale, costringerebbe infatti ad ammettere che gli stessi vaccini ad mRNA ne sono parte integrante, dato che il loro sviluppo proviene direttamente dal Pentagono degli Stati Uniti attraverso la DARPA, l'Agenzia per la Ricerca Avanzata della Difesa statunitense, e che la tecnologia ad mRNA per la sua estrema versatilità è la più adatta all'impiego in campo militare per la vaccinazione dei soldati e non solo. Come ormai intuibile a chiunque non abbia mandato il cervello in lockdown, l'operazione Covid è stata, tra le altre cose, un addestramento delle popolazioni alla guerra globale. Per oltre 2 anni la società intera è stata addestrata a comportarsi come un autentico corpo militare che obbedisce senza discutere, fino ad accettare, con le buone o con le cattive, l'inoculazione di preparati biotecnologici, sperimentali e pericolosi. E che ciò sia stato, tra le altre cose, una preparazione di massa a scenari di guerra batteriologica non è affatto da escludere. In questo quadro, le prime vittime di questa guerra, dopo russi e russofoni d'Ucraina, siamo stati tutti noi e in particolare tutti i nostri morti e danneggiati dall'emergenza, dalle cure negate e sbagliate, dalla sanità mandata deliberatamente allo sfascio, dai sieri criminalmente chiamati vaccini. Che nella chiamata genovese questi aspetti manchino non possiamo e non vogliamo nasconderlo, e quanti ce ne saranno qui di quelli che ci hanno sputato addosso perché non volevamo vaccinarci, né chiudere gli occhi né tacere. Ma queste mancanze non le colmeremo rimanendo tra noi a compiacerci di averci visto più lungo degli altri o a sfogarci sui social. A 3 anni di distanza dalla proclamazione dell'emergenza e a 1 anno dall'invasione dell'Ucraina, di tempo ne abbiamo già perso più che abbastanza. O sapremo reagire rompendo tutte le trappole che lor signori hanno seminato ad arte per dividerci, o continueremo a subire la loro guerra all'umanità. Per questo vi rivolgiamo un appello, care disertrici e disertori. Mentre nelle scorse settimane i portuali di Trieste e Monfalcone hanno già effettuato i primi scioperi, rifiutando, come i loro colleghi genovesi fanno da anni, di caricare armi, e mentre per quest'oggi è stato proclamato sciopero contro l'invio di armi all'Ucraina in tutti i porti italiani, non lasciamo che questa occasione si spenga. A partire da oggi riempiamo ogni giorno le strade della nostra rabbia per tutto quello che ci hanno fatto subire in questi anni, per tutte le bugie che ci hanno raccontato, per tutti i nostri morti da cure negate e sbagliate, per i nostri morti e danneggiati da vaccino, perché questa tragedia non si ripeta mai più, perché non ne accadano altre. Dal canto nostro, padroni di niente e servi di nessuno, ci auguriamo che questa manifestazione sia solo il primo momento di una mobilitazione contro la guerra e il suo mondo, che deve cominciare per continuare. Più persone ne prenderanno l'iniziativa e più sarà diffusa nel tempo e nello spazio, di giorno in giorno, di città in città, e più che nessun soggetto politico potrà controllare questa lotta che è e deve restare di tutti e per tutti. Più nessuno potrà controllarla, più padroni e governanti dovranno temerla. A presto nelle strade, Genova, 25 febbraio 2023, alcuni anarchici e anarchiche. Yeah! E intanto volevo ricordare che durante gli interventi precedenti abbiamo ascoltato in sottofondo la band della zona di Sesto San Giovanni nel milanese, i Soviet Order Zero, dal loro album In Disparte, uscito nel 2019, mentre ora ci stiamo ascoltando in sottofondo questa band statunitense californiana che è esistita tra l'88 e il 95, i Corrupted Ideals, dal loro album datato 1991 Joins the Resistance. Bene, e un saluto a tutte e a tutti, e anche da parte mia, per questa ultima mezz'ora di Zardins Magnetics. C'era in programma un piccolo approfondimento, e quindi se parte la musica in sottofondo io adesso con la calma vi spiego di cosa volevo parlarvi. Tutto il mondo in questo momento nessuno e nessun governo può vantarsi di governare. Sono le masse a determinare gli eventi, delle forze oscure di cui è impossibile conoscere le leggi. La verità è che qualche cosa ci spinge contro quello che siamo. Bisogna starci sempre, se no passi per quello che potete passare. Ma chi è allora che si diverte a farsi il verso dell'umanità? Già, chi ci manovra sotto su? E il diavolo probabilmente. Praticamente il 16 gennaio, anche se sembra passato un secolo, 16 gennaio scorso è stato prodotto questo evento mediatico dell'arresto di Matteo Messina Denaro, grande boss mafioso siciliano. Quindi noi sotto questo, diciamo, questa luce, diciamo, puntata, questo riflettore, insomma, sul discorso dei media, siamo rimasti del tutto stupiti, insomma, siamo istupiditi con questa battente propaganda sul discorso che il bene vince, c'è uno scontro tra il bene e il male, quindi il bene è lo Stato, il male è la mafia, eccetera eccetera eccetera. Io stasera volevo solo un attimo fare un passo indietro, insomma, o a lato, come si dice adesso, va di moda a dirlo, e vedere le cose un po' da un punto di vista leggermente diverso. Potrebbe essere che la mafia, invece che il male, rappresenti, come ha sempre rappresentato in altri tempi, invece che il passato, invece che il male, il futuro, l'avvenire della società come è impostata oggi, della società capitalista neoliberista degli anni 20 del XXI secolo. Infatti, come il neoliberismo, anche la mafia funziona secondo, diciamo, una logica di taglieggio, cioè di costrizione, insomma, con di sfruttamento estremo, di violenza elevata a massimi livelli, omicidio, massacro, cosa non diversa da quello che produce, che attua il neoliberismo degli anni 20, ripeto. Ma che cos'è invece dall'altro lato, che cos'è dall'altro, diciamo, la lotta alla mafia? Questa cosa che è stata prodotta retoricamente è una macchina molto potente, con molta potenza catturante, è difficile liberarsene, ci vogliono anni e anni, se non decenni, di vita per riuscire a districarsi da questa questo mostro invischiante che è l'antimafia. L'antimafia nasce praticamente già con la sconfitta, cioè emerge con la sconfitta del cosiddetto terrorismo, cioè con la sconfitta definitiva di quella numerosa, quantitativamente significativa parte di compagni che avevano scelto di combattere combattere lo Stato con le armi negli anni 70, era stata distrutta dalla repressione, dalla tortura, eccetera, eccetera, e alla fine di questa emergenza lo Stato italiano, la Repubblica italiana finalmente giungere alla propria decomposizione definitiva, e quindi comincia a venire a galla da un lato la mafia, il pericolo mafioso, e dall'altro questa antimafia. Quindi si mette in moto tutto un meccanismo per rimuovere la memoria da quello che era la realtà pochi anni prima, perché la realtà pochi anni prima era semplicemente, basta andare a pensare alla TV, la realtà era quella del dominio democristiano in Italia. Tutti i posti di potere erano occupati dai democristiani, il governo, le TV, per non parlare dell'industria, delle partecipazioni statali che il neoliberismo non prevede, ma a quel tempo c'era un altro sistema, diciamo, più diverso economicamente, più keynesiano, diciamo, e quindi era prevista anche le partecipazioni statali dove erano, insomma, ai cui posti c'erano dei democristiani. Possiamo andare col contributo con quella canzoncina che avevo detto. Questi qua erano la coppia Dario Fo, Franca Rame, che nel ottobre-novembre del 1962, per la prima volta tentano di parlare in TV di alcune parole che erano vietate dalla censura, e tra queste parole c'era anche la parola mafia, insieme a sciopero, insieme a serrata, insieme a morti di lavoro, morti bianche. Loro ci provano, sono chiaramente molto seguite queste trasmissioni di Canzonissima nel 62, ripeto, non c'era molto altro in TV la sera, il sabato sera, anzi non credo che ci fosse nient'altro. E dopo questa così questi sketch dove si sostiene l'esistenza di un'organizzazione criminale chiamata mafia, c'è una levata di scudi, prima di tutto in commissione di vigilanza da, insomma, dai parlamentari, esponenti del governo, poi insomma tutta una serie di reazioni a parte i giornali, ma anche il cardinale di Palermo che dice appunto si insulta l'onore del popolo siciliano, eccetera, perché appunto tutti gli anni 50 e si arriva alle soglie del centrosinistra, appunto, perché nel 62 tra l'altro c'era al governo c'era Fanfani con l'appoggio esterno del PSI spaccato a metà, insomma, da una parte Nenni e gli autonomisti, dall'altra la minoranza di sinistra, tutto questo il discorso della, dicevo, della mafia non poteva essere nominata dalla fine della guerra fino dalla seconda guerra mondiale fino al 62. Dimenticavo di dirlo, Dario Fo e Franca Rame sono stati mandati via dalla TV, non hanno potuto più partecipare per quasi 20 anni. Poi, inciso, Dario Fo non è che aveva le idee molto, molto chiare, ha sostenuto anche lui Beppe Grillo e 5 Stelle, quindi è caduto di nuovo in questa cosa del giustizialismo, che è praticamente l'altra faccia dell'antimafia. E dicevo, è importante ricordare appunto che loro hanno provato a portare questi argomenti in TV perché c'era questa cappa negli anni di Scelba, di Valletta, il ministro dell'interno, tra l'altro siciliano, Scelba. Valletta era il capo della Fiat, la polizia poteva tranquillamente sparare non lacrimogeni ma coi fucili sugli operai in sciopero, in picchetto. E quindi perché nel momento in cui gli Stati Uniti e gli inglesi, il Regno Unito e i loro eserciti invadono la Sicilia, c'è un tentativo di riforma agraria. Per la prima volta un ministro, tra l'altro del Partito Comunista Italiano, che si chiamava Fausto Gullo, che era un calabrese, mette a punto una riforma per distribuire le terre incolte, cosiddette occupazioni delle terre, c'era anche un progetto, il famoso spinto questo da CGIL, per eliminare la mezzadria e portarla a 2/3 al conduttore e 1/3 al proprietario. Tutto questo non è passato, ma non è passato facendo scorrere il sangue di sindacalisti da un lato, di sindacalisti, di proletari e di così chi si esponeva di più, appunto, che erano sempre lavoratori della terra, contadini si dice anche, e braccianti soprattutto. Di questo sistema, e dall'altro c'era appunto i grandi possidenti di questi latifondi, ma non solo, c'era anche borghesia agricola e c'era soprattutto appunto i loro mazzieri, le loro guardie erano queste organizzazioni criminose che si autorappresentavano come mafia. Quindi viene rimossa completamente tutto questo, succede questa cosa per poter ricostruire, no? E bisogna mettere sotto il tappeto emigrazione, gente, chi non si adegua parte. Stesse cose sono successe anche non solo in Sicilia, ma in scala ridotta, leggermente diversa, ma anche nel resto dell'Italia, anche qui in Friuli, da dove parliamo. Poi tutti questi contrasti, queste lotte, questi conflitti vengono piano piano, se ne riappropria lo Stato e vengono delegittimate contemporaneamente, simultaneamente. Quindi comincia a prodursi questo mito dell'antimafia. E se andiamo a vedere un esempio di questo discorso è la lapide che c'è sul dove è stato ucciso Peppino Impastato. Infatti su quella lapide c'era scritto: ucciso dalla mafia democristiana. E Peppino Impastato è stato ucciso nel 1978, quindi dal 78 viene, sì, cioè il punto, diciamo, di svolta del caso Moro, che è un punto di svolta storico, e da lì in poi deve essere cancellata questa memoria delle lotte. Sì, non è più la mafia democristiana, è la mafia assoluta, come un'entità, un nemico, il male assoluto, eccetera, eccetera. E poi si arriva con tecniche sempre più raffinate a nascondere la realtà, che è quella, appunto, che come lo Stato anche la mafia ha a sua disposizione del personale salariato pronto a picchiare, uccidere su ordine preciso di qualcun altro. Si rispecchiano queste due realtà praticamente, non sono neanche più separabili. E nell'ultimo mese e mezzo invece abbiamo visto, proprio mentre era in corso uno dei più grandi, più importanti, significativi, decisivi, necessari mobilitazioni contro il dominio dello Stato italiano e la sua repressione, mentre era nato tutto questo, simbolicamente lo rappresentato dal sciopero della fame di Alfredo Cospito, magicamente compare di nuovo questo mito qui del male nella persona, speculare dello Stato che in quel momento lì si era effettivamente aveva un'immagine indebolita, pare questo Matteo Messina Denaro, malato terminale di cancro al colon, costretto a cure, sì, a terapie, nonostante questo buttato al 41 bis all'Aquila, neanche per idea nessun tipo di ricovero. Ovviamente questo esponente qui non è che si mobilita, non è nei suoi piani, nei suoi orizzonti, non sappiamo, insomma. Comunque chiaramente Alfredo Cospito è in sciopero della fame, è diverso, però facendo il casino che ha fatto Alfredo, il minimo che gli possa succedere è essere ricoverato in ospedale nel reparto di opera, mentre invece uno qualunque, anche se rappresenta il male, nessuno si muove per lui, e tantomeno gli viene concesso niente. E quindi che fare? Siamo noi, come tutti gli altri, insomma, siamo sotto l'immaginario colonizzato, abbiamo l'immaginario colonizzato da questo discorso dell'antimafia, della legalità, c'è paralisi cognitiva, non si riesce neanche a elaborare tanto questo discorso, è mancata organizzazione a livello di lotte negli anni decisivi, che si diceva ci si è dispersi, c'è anche subito una sconfitta pesante a livello, insomma, strategico. Però l'importante è che si è riusciti a vedere in TV per prima volta, insomma, uno striscione no 41 bis, una cosa che era impossibile vedere, non era concepibile, non era prevista questa cosa, ed è invece per un piccolo, insomma, spiraglio di tempo è ritornata alla realtà e a far capolino, diciamo. È un pensiero che sfiora chiunque almeno una volta. Abbiamo una possibilità che ci rende più liberi degli dèi, quella di andarcene. È un'idea da assaporare fino in fondo. Niente e nessuno ci costringe a vivere, nemmeno la morte. Con una simile libertà non si può vivere da schiavi. La schiavitù è fatta per chi è condannato a vivere, per chi è costretto all'eternità. Non per noi c'è l'ignoto. Possiamo non vivere, ecco la più bella ragione per aprirsi con fierezza alla vita. Per dare la buonanotte sulla ori c'è sempre tempo, tanto vale rivoltarsi e giocare. Così parla il materialismo della gioia. Possiamo non fare, ecco la più bella ragione per agire. Raccogliamo in noi stessi la potenza di tutti gli atti di cui siamo capaci e nessun padrone potrà mai toglierci la possibilità del rifiuto. Ciò che siamo e ciò che vogliamo cominciano con un no. Da lì nascono le sole ragioni per alzarsi al mattino. Da lì nascono le sole ragioni per andare armati all'assalto in ordine che ci soffoca. Noi non vogliamo niente. Bene, cioè, bene, io direi che prima di salutare, cioè, prima che io vi saluti, volevo dire, devo ringraziare per questi pensieri sparsi, un po' disorganizzati, i compagni siciliani di Scirocco, se non sbaglio, si chiama il blog sciroccomadonie.noblogs.org, e è un'entità di cui si era parlato già, mi sembra, ai tempi della quarantena, avevamo prodotto delle analisi già a quei tempi, e in sottofondo avevo scelto questo gruppo, si chiamava Afasia, era attivo nei primi anni 2000, diciamo, e sono di Messina, erano di Messina, e dicevo, devo ringraziare i compagni di Scirocco Madonie che hanno dedicato un lungo approfondimento, una lettura critica di mafia e antimafia di Stato su un'intervista, diciamo, telefonica su Radio Onda Rossa, che colgo l'occasione per ringraziare, e che appunto potete trovare già in podcast, e è una lettura molto approfondita, molto puntuale, più ordinata di come l'ho presentata io qui, così a braccio, e basta per stasera. Direi che abbiamo concluso. Scopo essenziale del conflitto moderno è la distruzione di quanto prodotto dal lavoro umano. Una società gerarchica è possibile solo sulla base della povertà e dell'ignoranza. Come principio, lo sforzo bellico è sempre programmato per tenere la società alla soglia della fame. La guerra è scatenata dal gruppo dominante contro i suoi stessi soggetti. E lo scopo non è la vittoria contro l'Eurasia o l'Estasia, ma quello di mantenere intatta la struttura della società. Bene, siamo giunti anche al termine di questa trasmissione che è Zardins Magnetics, che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dai studi di Radio Onde Furlane da Udine. E lasciamo comunque sempre in sottofondo questa band di Messina, gli Afasia. Tra l'altro volevo dire che è l'unico album che ha fatto questa band, peccato, è comunque datato 2007. E come ogni volta giunti al termine della trasmissione vi dico i nostri contatti. Chi volesse scriverci con la posta elettronica può farlo attraverso la mail liberetutti@autistiche.org, ripeto liberetutti@autistiche.org, oppure scriverci direttamente alla casella postale numero 129 di Trieste Centro 34121, intestando ad Associazione Senza Sbarre, ripeto casella postale 129 Associazione Senza Sbarre Trieste Centro 34121. Inoltre ricordo che chiunque volesse riascoltare questa trasmissione, quella odierna, ma anche tutte quelle avvenute in passato, può andare su zardinsmagneticsradio.noblogs.org, ripeto zardinsmagneticsradio.noblogs.org. Inoltre salutiamo anche tutti quelli che ci riascolteranno domani dalle ore 17 su Radiazione Web Radio. Bene, appuntamento quindi al prossimo giovedì in diretta radiofonica qui, come già detto, da Radio Onde Furlane dalle ore 20 alle ore 21:30. Vi lascio con un ultimo brano di questa band che abbiamo così di sfuggita ascoltato prima, ovvero i statunitensi californiani Corrupted Ideals, dal loro album datato 1991 che si intitola Join the Resistance. Ciao a tutti, al prossimo giovedì. Stop production on a judgment board! It stops you!